Mancano 2 giorni a dicembre, sento già la mia solitudine, e non vedi più niente. Mancano 2 giorni a dicembre, vetrine invaghite di luci e di polvere d'oro, ma non ti importa più niente del freddo forte che fa. Mancano 2 giorni a dicembre, dovresti fermarti a osservare la neve sugli alberi, e ritornare bambino con quella curiosità. Resta più niente, una goccia che cade su questo presepe, e io non vedo più niente, solo le luci della città. Cielo che piange, Natale già qua.